Avere un viaggio da fare ma non sapere dove andare è una bella sensazione. Di solito ci si mette in viaggio per andare in un posto preciso. Invece, in questo caso qui, io andavo in un posto solo perché avevo un viaggio pagato. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16 e 9 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. È stato un weekend a sorpresa questo. Sapete quando arrivano i weekend che non ti aspetti? Perché succede qualcosa tipo o durante la settimana, però durante la settimana è già troppo presto, e che poi te l'aspetti, sì. Ma di solito il venerdì pomeriggio succede qualcosa che ti ribalta la prospettiva del tuo fine settimana, che altrimenti sarebbe stato il solito fine settimana sul divano a guardarti tutte le partite del mondo. E invece no, la prospettiva si ribalta. E la prospettiva si è ribaltata. E, insomma, ho scoperto di avere la possibilità di partire per un viaggio completamente pagato, adesso vi spiegherò anche come. E sono andato. Tra l'altro è successo che mentre ero via ho caricato una foto sul profilo Facebook, era Matteo Caccia, io sono qui, e l'ho caricata di proposito senza specificare dove fossi, ed è cominciata questa bagarre tra le persone che passano da quelle parti. Ma dove sei? Sembra Nord Europa. Dov'è? Londra? No, Venezia. E poi Berlino. No, forse qualcuno scrive, forse è Valencia. E altro, Setúbal. Ma Setúbal o Setúbal, ne parlavo prima con Bonini, è il paese di José Mourinho, giusto? Quindi comunque non si fa lontani. E invece no, ero in un altro posto e vi racconterò dov'era a brevissimo. L'altra sorpresa invece è stata quella che a 35 anni scopro, dopo essermi lanciato col paracadute ed essere svenuto, dopo essere salito su una montagna e esserci arrivato vicino, scopro di avere paura dell'aereo. È una roba che un po' ti spiazza, perché tu per 35 anni hai fatto anche un po' il grosso, no? Che dici, ma figurati, prendo l'aereo come andare in bicicletta. E poi non sai che cos'è, forse è una cosa che è una sorta di incrinazione nelle proprie certezze o nella propria corteccia, per cui improvvisamente cominci a dire, ah, però se questo rumorino, ma se questo movimento, solo che a 35 anni tu non sei pronto, cioè non hai sviluppato una vita di metodi per non avere paura dell'aereo. 800240024 oppure 349-238-6666, perché ognuno sviluppa un proprio metodo, giusto, per evitare di avere paura dell'aereo, o meglio, per esorcizzarla, perché poi quella rimane, mi sembra evidente. Però ad esempio mi sono arrivati dei messaggi, poi chiaramente qui la fantasia, quando si rimesta nelle paure, la fantasia va molto a fondo nel proprio inconscio. Susanna mi scrive: io non ho paura, ho terrore, ma qualche volta me lo impongo. Quando si decolla tengo le orecchie chiuse con le dita, gli occhi sono super chiusi, non parlo, non mangio, non faccio la pipì, resto in quella assurda posizione fino all'arrivo, anche in voli di 3 ore. Poi per scendere devo sbloccare ad una a una ogni articolazione, e se mia figlia è con me giura che mai più salirà su un aereo, che la faccio vergognare. Vorrei aggiungere che prima di diventare mamma, 23 anni fa, ho preso più aerei dei tram. 800240024 oppure 349-238-6666. Perché i metodi per io non li conosco, infatti ieri sera mentre tornavo ho avuto qualche traballamento. Per esempio Silvia scrive: paura anche lei, no, io ho il terrore, mi faccio dei bellissimi ma scomodissimi viaggi raggomitolata sul sedile, possibilmente con la copertina che faccia da tenda, e mi isoli completamente in modo da non vedere l'espressione degli altri passeggeri, a volte più terrorizzati di me, e con le cuffiette in modo da non sentire rumorini vari e commenti pseudo simpatici dei viaggiatori in stile MacGyver, tipo: se anche un motore andasse fuori uso si riuscirebbe comunque a fare l'atterraggio di fortuna. In ogni caso, ho viaggiato molto e sempre lo farò. Lo considero una sfida a me stessa. Quindi ancora più a fondo della psicoanalisi. È un po' come praticare uno sport estremo. Se in uno dei vostri viaggi avete avuto vicino una montagnetta umana, quella ero io. 800240024 oppure 349-238-6666. Ieri, mentre tornavo e mi accorgevo che a 35 anni avevo paura e non sapevo come gestirla, mi è venuto in mente un mio caro amico che si chiama Bazooka. Cioè non si chiama Bazooka, però per tutti è semplicemente Bazooka. Non vi sto a spiegare perché si chiama Bazooka, semplicemente questo è il suo soprannome e tutti lo chiamiamo così. Lui fa parte di quella categoria lì che è obbligato a viaggiare per lavoro e ha il terrore di mettere piede su un aereo, e lui ha sviluppato diversi metodi per non avere paura. Pronto? Bazooka, sono il Caccia. Ti disturbo? No, dimmi. Sì, lo so che ti disturbo. Dai, dammi solo un minuto. Visto che l'altro giorno, tornando da Newcastle, ho pigliato un 2 o 3 turbolenze che mi sei venuto in mente. Sì. E si parlava della storia del simulatore. Sì. funziona da un punto di vista terapeutico? Cioè, poi ti passa la paura o... Assolutamente no, anzi te ne viene pure di più. Sì, però ad esempio quando mi dicevi che ti fai Milano-New York in una notte intera. Sì. Ho capito. E quello ti serve a farti passare la paura? No, difatti quello non ti serve a farti passare. Diciamo che forse ti dà un po' più di consapevolezza rispetto a quello che può succedere in un aereo. Cioè ti rendi conto di quanto sia difficile che un aereo cada o cose del genere, perché ci sono delle leggi fisiche, ma quello dovresti parlare forse con un pilota che te lo spiega meglio, no? Vabbè, però scusami, tra il simulatore di volo, guardare tutti i video su YouTube in cui cadono gli aerei e la vodka sull'aereo, la cosa che funziona meglio? Assolutamente la vodka sull'aereo. Ma tu hai mai fatto invece il corso, quello per farti passare la paura di volare? No, non l'ho mai fatto, ho letto un bel po' di cose, ma ti dico, penso che nel mio caso sia... Cioè, è una follia, per cui dovresti andare alla radice del problema. Dall'analista, Bazzo. Facendo un percorso, analisi. Esatto, così. Esatto. No, vabbè, dai, ti ringrazio, ci vediamo domani in ufficio. Va bene. Perché ogni tanto la vita ti stupisce. A volte lo fa togliendoti cose che non sai. Cose che non sai come sembravano appartenerti da sempre e per sempre. A volte invece creando ostacoli sulla strada che ti pareva dritta e serena. Altre volte ancora facendoti dei regali. Regali tipo giornate di sole tiepido nel bel mezzo dell'inverno, oppure persone incontrate per caso che ti cambiano la vita. Ma anche sotto forma di punti fragola del supermercato che ti aprono prospettive inaspettate. Settimana scorsa, dopo aver fatto la solita spesa inutile al supermercato vicino a casa, la cassiera, insieme allo scontrino con il conto finale, me ne ha allungato un altro, del tutto simile, ma molto più piccolo, dicendomi: questa è una comunicazione per lei. Per un attimo mi sono sentito quasi orgoglioso per il fatto che il mio supermercato preferito volesse dirmi qualcosa. Vabbè, ho preso il fogliettino e mi sono spostato dalla cassa per potermi fermare e leggere con più attenzione cosa volesse dirmi il supermercato. Ho appoggiato la busta per terra e mi sono messo a leggere la comunicazione per me. Gentile signor Caccia, siamo lieti di comunicarle che lei ha raggiunto 11.000 punti fragola grazie alla sua carta fedeltà. Le ricordiamo che il limite massimo entro il quale disporre dei premi a disposizione è il 31 ottobre 2010. Insomma, il messaggio era chiaro. Hai un mese per poter usare sti punti, dopodiché arrivederci. Ho preso un catalogo dei premi al Banco Informazioni e me ne sono tornato a casa. I premi erano di tutti i tipi: servizi di piatti, biciclette mountain bike, tappeti per il bagno e la cucina, idropulitrici professionali, piumini danesi, coperte in lana merinos, robot da cucina, seggioline per bambini, insomma, roba che uno si sarebbe potuto arredare la casa solo con quel catalogo. Poi in fondo c'erano i servizi, tipo biglietti per il cinema, assicurazioni scontate, vacanze in villaggio, buoni per bar, ristoranti e i punti mille miglia. E lì ho avuto l'illuminazione. Ecco come usare i miei 11.000 punti. Con un viaggio. Se siete iscritti al programma Mille Miglia, potrete utilizzare i vostri punti per richiedere miglia all'Italia e ottenere più velocemente biglietti premio. Sarà sufficiente recarsi al punto informazioni con la vostra carta Fidati e quella del programma Mille Miglia e comunicare alla promoter quanti punti volete utilizzare per richiedere miglia all'Italia. Insomma, ho guardato come convertire punti in miglia e ho scoperto che con i miei 11.000 punti potevo ottenere 15.000 miglia di volo. A questo punto dovevo solo sapere quante miglia avevo già sul mio conto per capire dove potevo andare completamente gratis. Alitalia, buon pomeriggio. Per prenotazioni ed acquisto biglietti, prema 1. Per informazioni, prema 2. Per il club Mille Miglia, prema 3. 3. Per web ed assistenze speciali... 3. Va bene, va bene. Inserisca il suo codice Mille Miglia. Ok. Club Mille Miglia. Per i biglietti premio, prema 1. Per richiedere l'elenco delle ultime attività o variare il suo PIN, prema 2. Ok, per 2. Per informazioni, prema 3. 3. Per conoscere le novità del programma Mille Miglia, prema 1. Sì, per ricevere informazioni su accumulo ed utilizzo delle miglia, prema 2. Ok, basta il 2. Basta il 2. Basta il 2. Up there's the heavens, down there's the town. Blackness everywhere and little light shine. Darkness, blackness, dragging me down. Come on, light the candle in this poor heart of mine. Oh, star bright, you got the love that I like, all right. Turn this crazy bird around. Shouldn't have got on. Non ci ho pensato due volte. Avevo un biglietto gratis e il fine settimana libero. Non che di solito ce l'abbia impegnati fine settimana, però suona bene, no, dire avevo il fine settimana libero. Non avevo assolutamente idea però di dove andare, e questa era una sensazione bellissima, cioè avere un viaggio da fare ma non sapere dove andare. Di solito ci si mette in viaggio per andare in un posto, invece in questo caso andavo in un posto solo perché avevo un viaggio pagato. Allora ho preso un atlante. Avete presente gli atlanti, no? I libroni, quelli con sulle cartine di tutto il mondo. Che ormai Google Maps un po' ti frega, perché è troppo comodo. Cioè basta scrivere il posto che cerchi e ti esce la cartina con il posto contrassegnato nel centro. Quindi vedi com'è il mondo intorno a quel posto e poi quello nel centro. Mentre con le cartine il processo è inverso, cioè vedi il mondo e ti ci devi orientare per trovare il posto che cerchi. E se non sai dove andare, quest'ultimo è il modo migliore. Quindi mi sono fermato un secondo a riflettere su che cosa volevo da questo piccolo viaggio. Dunque, volevo andare a nord, però non troppo. Volevo una città e non dei paesaggi. Una città non troppo grossa, però, da poterci girare a piedi, magari vedere un concerto, uno spettacolo. Quindi la Francia era troppo vicina e troppo francese. La Germania non è male, però non parla una parola di tedesco ed è incomprensibile. La Scandinavia un po' la conoscevo, e però era già troppo fredda. In Olanda ci sarei andato solo per vedere il paese natale di Snyder. Il Belgio mi pare un posto in cui non accade mai nulla. Rimaneva l'Inghilterra. Quindi Londra, già stato e poi troppo grande. Liverpool, un po' troppo Beatles. Manchester, troppo triste. Nottingham, troppo foresta. Ho spostato il dito verso l'alto e giusto a un'unghia dalla Scozia, sulla parte destra della costa inglese, ho letto Newcastle. Ho cercato su Google e ho visto che Newcastle è la città di Sting, che ha un ponte modernissimo sul fiume e che, secondo una strana classifica, è l'ottava città più divertente del mondo. Però soprattutto andare a Newcastle in un fine settimana d'autunno sembrava non avere alcun senso. E quindi ho deciso. Vado a Newcastle. Sabato mattina alle 6.50 avevo il volo da Linate. Scalo ad Amsterdam, arrivo a Newcastle per le 10.30. Alle 6 ero già in aeroporto e purtroppo non ero il solo. Al check-in c'era una coda di almeno mezz'ora. È incredibile l'effetto che volare ha sulle persone. Cioè, già all'imbarco vedi le facce pallide di quelli che sono terrorizzati dal salire su un aereo e quelle invece rilassate di chi prende l'aereo come fosse un autobus. Che io non so mai se avere paura in aereo oppure no. Cioè, ho come la sensazione che avere paura sia un lusso che io non mi posso permettere. Quindi da quando ho iniziato a volare mi sono informato, ho studiato e alla fine so cosa succede quando un aereo decolla. Quindi rimango concentrato sul fatto che i motori che fanno un gran casino e l'accelerazione dell'aereo sulla pista è tutto funzionale al fatto che la velocità deve creare portanza. E visto che ormai lo so a memoria, so che accade e quindi me lo ripeto ogni volta. Un velivolo lanciato ad una determinata velocità, che è detta VR, cioè velocità di rotazione, sugli aerei di linea è circa 250-300 km all'ora, grazie alla forma delle sue ali, crea una depressione sulla parte superiore dell'ala, che solleva tutto l'aeroplano. Per cui, a differenza di quanto si pensa, di quanto io pensavo, l'apparecchio non viene spinto da sotto, ma viene come risucchiato da sopra. Verso i 50 piedi da terra rientra il carrello, dopo i 300 rientrano i flap, dopo i 1500 la potenza dei motori viene ridotta e si passa alla fase di crociera. E questo per il decollo. Per quanto riguarda l'atterraggio, invece, so che la discesa inizia grosso modo quando mancano 200 km all'arrivo, che sono più o meno 25 minuti prima dell'atterraggio. Quindi il pilota diminuisce la velocità e progressivamente l'aereo perde quota. Non appena le ruote toccano il terreno, si azionano gli aerofreni, che tengono premute le ruote sulla pista, e si azionano gli invertitori di spinta, che fermano definitivamente l'aereo. Ecco, perfetto. Se so tutto questo, com'è che comunque mi sembra di avere paura? I missed the bus. You were late on your back with the boy with the Arab strap. With the boy from the Arab strap. Eraldo è d'accordo con il mio amico Bazooka. Confermo la vodka e tre gin tonic durante un tifone in atterraggio a Hong Kong. Volo perfetto. Quando lavoravo in aeroporto distribuivano un opuscolo che apriva così: arrivati in macchina in aeroporto avete superato il 99% di possibilità di avere un incidente. Ciao Andrea. Silvia, ho fatto il primo volo a 45 anni ad agosto. Per consolarmi pensavo che se ogni secondo Ah no, scusa, pensavo che ogni secondo ero più vicina all'atterraggio. 800240024 oppure 349-238-6666. Per tutti i metodi che utilizzate per non avere paura dell'aereo, c'è un metodo invece da utilizzare, o perlomeno che utilizzano le compagnie aeree, per cercare di invogliare la gente a volare. O forse è una roba che devono fare obbligatoriamente. No, non credo sia una roba che devono fare da un punto di vista ministeriale. Semplicemente, molte compagnie aeree, tra cui la nostra, cioè l'Alitalia, fanno dei fine settimana che sono tipo degli stage per farti passare la voglia, la paura, per farti venire la voglia di volare. Si chiama voglia di volare il corso. E sono dei seminari per farti passare la paura di volare. Il programma del fine settimana non è niente male, ed è più o meno così. Sabato, 9.30 benvenuto, 10.30 paure, fobie e l'ansia del volo. Però non spiega esattamente tipo se le trattano o se ne parla. Paure, fobia, ansia del volo. Ore 13 pranzo, ore 14 incontro con un comandante. La sicurezza nella... Ecco, io avrei bisogno di un comandante oggi. 800240024, avrei bisogno di un comandante o di un pilota da aereo, ovviamente, civile o militare, ma anche un assistente di volo. Alla fine anche gli assistenti di volo in Airport 77 è un assistente di volo che porta giù l'aereo, no? Quindi vanno bene anche loro. 800240024. Comunque, ore 14 incontro con il comandante. Ore 16, simulatore di volo. Un comandante effettua decolli, atterraggi e manovre a richiesta dei partecipanti. Cioè, qualsiasi cosa gli chiedi te la fa? Ti fa anche il giro della morte? Ore 17.30, sala emergenze, 18.30, riunione di gruppo. Domenica, ore 10, esercizi di rilassamento e preparazione al volo. Mi fa ridere, però non fa ridere, cioè immagino che sia utile. 11.30, trasferimento in pullman all'aeroporto. Ore 12.30, volo non obbligatorio per Milano o Roma. Come non obbligatorio? Cosa abbiamo fatto a fare? Ore 14, pranzo in aeroporto, sempre se l'aereo a terra ovviamente. Ore 17, volo di ritorno per Roma per Milano. Trasferimento in pullman al centro addestramento. 18.30, riunione di gruppo e commento dell'esperienza. 800240... 0... No, giustamente non è gratis, che sta roba qua costa tipo 700-800 euro, mi pare. Non ne sono sicuro, però me l'ha stampato Vittoria. Credo che costi una roba del genere, più di 500 euro sicuro. 800240024 per i metodi per non avere paura di volare. Prima la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Finalmente una bella foto. È una foto probabilmente anche leggermente ritoccata. Quindi è uno che un po' fa le foto e un po' gli piace farle le foto. C'è il cielo molto grigio e il mare piattissimo, con delle barche all'ancora. Barche molto grosse, tra l'altro, barche a vela, yacht e anche lunghe. E al centro dell'inquadratura c'è un molo che entra dritto nel mare. È un molo in cemento e non si capisce perché è tutto bianco, è tutto abbastanza opaco. In fondo al molo, praticamente in linea con le barche che sono ormeggiate al largo, ci sono tre sedie e un uomo vestito di scuro, seduto, che guarda il mare. William Nava, 34 anni, eccomi lì, in fondo a un pontile, seduto per terra, lontano dalla gente e vicino ai miei pensieri. Io sono qui. Se volete vedere la foto di William, che è effettivamente bella, così come tutte le altre, potete andare sul sito di Radio 24, alla pagina di Io Sono Qui, c'è la foto del giorno, quella che vi descrivo oggi. Altrimenti invece andate sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, Io Sono Qui, e lì c'è la cartella E Voi Dove Siete, con tutte le foto dei vostri Io Sono Qui. Per farlo, semplicemente per mandare, continuate a visitare il profilo Facebook e le caricate direttamente sulla bacheca. Non chiedetemi come si faccia, perché non lo so, credo non sia così difficile. Ci deve essere un metodo, però non credo sia difficile. 800240024 oppure 349-238-6666. Basta dire, da inesperto ovviamente, quale io sono, due cose di fisica, dei fluidi, di aerodinamica, che subito arrivano i miei preferiti, gli ingegneri e i fisici, che ci tengono a spiegarti che non è esattamente come dicevi. Quel risucchio dell'aria sulle ali si chiama effetto di Bernoulli. Un profilo immerso in un fluido che scorre a velocità diversa sui due lati viene risucchiato dal lato dove il fluido liquido scorre più velocemente. Il profilo alare ha questo scopo. Ora sai anche chi ringraziare quando voli. Cesare. Cesare, innanzitutto ringrazio te per avermelo spiegato. L'ala viene spinta da sotto, viene sia spinta da sotto sia aspirata sulla parte superiore. Questo raddoppia la superficie su cui agisce l'aria, diminuendo la dimensione minima necessaria dell'ala stessa. Questo però non mi tranquillizza moltissimo. E poi c'è un pilota che mi dice: sono un pilota, ho preso il brevetto, ma ho paura quando guidano gli altri. Ho paura quando guidano gli altri, che però in realtà non credo si dica quando guidano gli altri. Comunque mi dico che se succedesse neanche me ne accorgerei. Livio, Livio, ma tu sei sicuro? Pronto? Ciao, pronto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tu sei sicuro che non te ne accorgeresti neanche se cadesse? Ma sì, penso che non me ne accorgerei proprio, penso di sì. Tu sei un pilota... Ho preso un brevetto perché più piccolo volevo entrare in aviazione e quindi poi ho continuato a volare per alcuni anni. Quindi, che piloti, che aerei hai pilotato? I Piper, sono terribili perché sono più piccoli, quindi si sente ogni turbolenza moltiplicata 10 volte. Ma immagina, sono più facili però? Sono più? Più facili, immagino, da guidare. Ma no, il principio è sempre lo stesso. Sono sicuramente, diciamo, costano meno, quindi se facessi danni ci metteresti di meno a ripagarli. Senti, ma tu quindi non voli più adesso però? No, è qualche anno che non volo più. Ma però per paura o per mancanza di tempo? No, no, no, perché poi il lavoro mi ha portato a fare altre cose. Però dimmi, tu hai paura adesso? Sì, sì, sì, ma anche quando guidavo io, quando guidavano gli altri. È come quando sei un automobilista, un poco senti... Ma ho capito, quando però... guidi tu hai un po' più di controllo. Certo, però... Devi girare a sinistra intanto, Livio. però la cosa che non capisco è: ma perché lo facevi se avevi paura? Ah, perché volevo superarmi, perché volevo sfidarmi. Ah, ok. Alla fine, superando questa paura, mi sono divertito tantissimo. Ecco, questo è un motivo anche che può motivare le persone a superare questa paura. Che cosa fai nella vita, Livio? Adesso cosa fai? Adesso sono un medico. Un medico di cosa? Sono un medico generico in attesa di crescere professionalmente. Adesso vedremo cosa succederà. Va bene, in bocca al lupo, Livio. Grazie mille, buona giornata. Pepe, grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ma qua i piloti fioccano. Carlo da Roma, pronto? Pronto? Pronto, ciao Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, tu sei stato sia pilota militare che civile. Esatto, sì, ho fatto per 10 anni il pilota militare e poi per 25 circa il pilota civile, fino ad arrivare a fare il comandante sul Boeing 767, e poi per raggiunti i limiti d'età sono in pensione. Ma eri per la nostra compagnia di bandiera, Carlo? Esatto, sì, ero con la compagnia d'Italia. Senti, ti manca il fatto di volare adesso che sei in pensione? Sì, un pochino sì, un pochino mi manca, però insomma ho cercato di riempire il mio tempo libero con tante altre attività Tipo, fammi un esempio di un'attività che possa essere un surrogato del volo. Surrogato del volo non lo so, io ho riempito la mia vita con il golf, il bridge, faccio il sommelier, faccio il volontario della Croce Rossa. Ah, ok, non hai un attimo libero, Carlo, è l'horror vacui puro questo. Senti, dimmi invece una volta in cui hai avuto veramente paura su un volo. Sai quando a tavola, no, ci si mette lì e tutti raccontano la propria esperienza? Ah, una volta ho beccato una turbolenza, e tu immagino ce l'hai sempre in canna la più grossa, no? Perché tu ho avuto paura, sì, una volta in cui da solo mi sono messo in una situazione assurda. Ho messo l'aereo era un F-104 biposto. Quindi militare? Militare, io ero istruttore su questo aeroplano, che è un aeroplano piuttosto difficile da domare. E ritornando, riportavo l'aeroplano da Torino, dove aveva fatto la manutenzione, a Grosseto, che era la mia base, e avevo circa 15-20 minuti di carburante libero per fare acrobazie in zona, insomma, per divertirmi un po' prima di atterrare. Ma questo, scusami, ma questo era lecito farlo? Cioè uno poteva avere 20 sì, minuti? Certo, per... sì, sì. Sì, sì, certo. Ah. Fa parte dell'addestramento, okay. Quando hai, specialmente nella mia situazione di istruttore, nella quale ben difficilmente mettevo le mani sulla cloche, perché la maggior parte del tempo era dedicato agli allievi, sì. Quando capitava di avere 15 minuti liberi, ovviamente sì, era lecito addestrarsi. E quindi che è successo? Mi sono messo da solo in una situazione piuttosto brutta. L'aeroplano, per fartela breve, insomma, adesso è inutile descrivere i particolari, è entrato in quella che si chiama una vite verticale, e secondo il costruttore, la Lockheed, questo aeroplano non esce dalla vite. Io però, cioè quando ci entra è finita? Quando ci entra è praticamente finito. Io però per la paura di quello che avrebbero detto quando mi fossi lanciato col paracadute e atterrato a terra, sì, cioè per aver distrutto un aeroplano con le mie mani, ho fatto dei tentativi per farlo uscire, alla fine insomma sono uscito, però c'era una gran puzza in cockpit quando sono venuto fuori. C'era una gran? Credevo fosse una roba di gergo, invece no, era proprio che sei arrivata tanto così. Grazie mille Carlo, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Andiamo a Roma da Alessandro, che quando entra in aereo ha anche lui un bel metodo, giusto? Che è il più semplice. Sì, ciao Alessandro. Se viaggiassi molto, penso che morirei di cirrosi epatica piuttosto che di... Quindi il metodo è sempre, cioè non ce n'è un altro, è chiamare la hostess e ubriacarsi. No, proprio no, ma entro già ubriaco, perché il problema è proprio il decollo, no? Mm-hmm. E quindi già lì al bar della stazione, lì prima di entrare, già gli do giù e entro bello brillo. Ma poi comunque l'atteggiamento mentale è che io do per scontato che l'aereo cada. Ogni volta che prendi l'aereo? Sì. Beh, non è male, no? Prima di salire, prima di fare il viaggio, avverto tutti i miei amici, gli do le ultime direttive, faccio una specie di testamento morale per i... Quante volte prendi l'aereo, scusa Alessandro? Un paio di volte l'anno. Ah, ok. Senti, dove sei stato l'ultima volta? A Parigi. E tu sei uno di quelli che applaude quando l'aereo atterra? No, assolutamente. Tu te ne stai bello rannicchiato nel tuo posto, sì, e ringrazi, sì, Dio e la Madonna. In un silenzio tombale proprio... Ma io calcola che io lavoro in aeroporto. Cosa fai? Faccio il vigile del fuoco. Ah, ok. E quindi da quando ho cominciato a lavorare in aeroporto ho visto lì le manutenzioni agli aerei, come si fanno, ho cominciato a non fidarmi più. Ma Alessandro, scusami, ma tu non sei in servizio in questo momento? No. Ah, ok. No, peraltro. Adesso sto a riposo. Perfetto. E quindi non mi fido più. Capito? Bene, e quindi via. E quindi a lei di vodka. Alessandro, grazie mille. Di nulla. Ciao, a presto. Ciao. Andiamo a Prato da Agostino. Pronto? Sì, ciao. Agostino, tu lavori sugli aerei, però non sei un pilota. No, io faccio manutenzione. Ah, quindi sei una di quelle persone. Guarda, leggevo un messaggio di un ascoltatore che diceva che era rimasto bloccato sull'aereo perché non lo facevano partire perché aveva dei problemi e si trovava in Grecia, e a un certo punto hanno visto fuori dagli oblò arrivare le persone che probabilmente fanno il tuo lavoro in infradito, mentre che aggiustavano qualcosa che non andava, e questo non gli ha dato molta fiducia. Beh, ci sono degli aeroporti dove sì, l'abbigliamento può darsi non è tanto consono, tipo anche in Australia vanno con gli shorts, con le ciabatte, ma questo non significa poi che non siano competenti, non venga fatta per bene e le persone che lavorano sotto gli aerei non siano competenti. Ma lo immagino. Ma Agostino, ma dimmi, cioè, prima che un aereo decolli, un aereo che diciamo sta bene, è in salute e sta per decollare, quali sono i controlli che vengono fatti proprio lì al momento? Ci sia il pieno? Sugli aerei dobbiamo essere tranquilli al 100% dal punto di vista di manutenzione, almeno per quanto riguarda le compagnie, posso dire, europee, sì, in quanto i controlli vengono fatti ad ogni volo, ad ogni transito, ogni notte. Ci sono tutti dei controlli, delle manutenzioni schedulate. Poi oltre a tutti gli altri controlli che facciamo aggiuntivi, che sono legati ai riporti che ci fanno gli equipaggi, quindi a delle avarie che possono avere avuto in volo o anche a terra prima e del, quindi lì chiaramente andate a controllare perché vi dicono che hanno notato qualcosa che non andava. Ma Agostino, scusami, com'è che si diventa invece un manutentore d'aerei? Io in particolare ho fatto la scuola aeronautica a Roma, ho fatto l'istituto tecnico aeronautico, una scuola, diciamo le scuole superiori, e c'era l'indirizzo proprio aeronautico. Ah, okay. Poi però può diventarci anche facendo un istituto tecnico industriale, e poi prendi la specializzazione se hai la fortuna di entrare in una ditta aeronautica. Chiaro, chiaro. O in una Agostino, compagnia aerea. Scusami, e poi ti lascio, tu hai paura quando voli? Per niente, la maggior parte delle volte che volo per lavoro è perché gli aerei hanno qualche problema, quindi andiamo giusto a vedere se il lavoro che abbiamo fatto noi è stato fatto per bene. Agostino, però possiamo rassicurare tutti gli ascoltatori tutti, che l'aereo è il mezzo più sicuro al mondo. Guarda. Agostino, guarda, mi hai messo il cuore in pace, grazie mille, buona giornata. Ciao alla prossima, grazie. Ciao. Grazie ad Agostino, grazie però anche a Paulino Corleone, a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini e ad Alessandro Genovesi. Oggi ho scoperto dove era Newcastle, ho scoperto che ho paura di volare e soprattutto sono partito per Newcastle. Questo però ve lo racconto domani, perché domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?